Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suardi in redazione, Carmelo Lauricella in regia per questa puntata di A Tempo di Sport, di cui vi do subito innanzitutto il numero verde 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666, e poi il menu. Dunque, in questa prima mezz'ora vorrei ritornare sull'argomento Kakà, perché ci sono dei conti che non mi tornano. Nella seconda parte del programma invece proveremo ad andare ad approfondire quelle cronache che leggiamo su tutti i giornali che arrivano dal Sudafrica. Voglio capire insieme a voi un po' di più della realtà sudafricana, ma sul serio. Dunque, partiamo però dall'affare Kakà, torniamo sull'affare Kakà, perché come ho detto ci sono dei conti che non mi tornano. Dato che parliamo di conti, però avevo bisogno di una guida, di un padrino, e allora ho convocato dal piano di sopra, dal Sole 24 Ore, Marco Belinazzo. Ciao Marco. Ciao. Marco Belinazzo, che già naturalmente conoscete. Allora, ci sono diverse cose che mi sfuggono nell'affare Kakà. Ad esempio, Silvio Berlusconi che dice è impossibile impedirgli di guadagnare di più. Gli offrono un sacco di soldi, va a guadagnare un sacco di soldi al Real Madrid. In realtà, poi leggi i giornali, 10 milioni netti prendeva al Milan, 10 milioni netti prenderà al Real Madrid questo benedetto ragazzo. Detto che questi 10 milioni hanno un peso specifico molto diverso per il Milan e per il Real Madrid. Giusto? Esattamente, i giocatori, soprattutto quelli di fascia alta, sono abituati a contrattare al netto e quindi guadagnano soldi, come dire, indipendentemente da quello che è il peso fiscale del singolo paese. Viceversa, le società invece devono pagare queste imposte. Uh-huh. E evidentemente ormai la questione è nota, c'è una disparità tra la Spagna e l'Italia, ma anche di altri paesi europei, per cui i giocatori stranieri, che sono considerati appunto fiscalmente non residenti, hanno un'imposta, un prelievo che in Spagna è del 24%, sostanzialmente la metà di quello che è il prelievo in Italia, che per redditi così alti supera il 40%. Quindi una società che voglia ingaggiare campioni di questo tipo, italiana, deve sostanzialmente sostenere un costo doppio rispetto a quanto possano invece fare le squadre spagnole. Se invece ci va Ibrahimovic, a parte che notizie di questa mattina dalla Spagna dicono affare fatto per Ibra al Barcellona, e to più 10 milioni, che mi sembra abbastanza ridicola come contropartita, però se ci va Ibra invece? Esattamente la stessa cosa, anche lui contratterà un guadagno netto che sarà forse lo stesso, evidentemente lo stesso, perché nessun professionista va a guadagnare di meno quando si sposta da una squadra all'altra, ma il costo che avrà il Barcellona rispetto all'Inter per il contratto di Ibrahimovic sarà la metà più o meno di quanto attualmente è costretto a pagare l'Inter. Io direi che bisogna provare a mettere qualche punto fermo in questa vicenda, in generale su quello che è il calciomercato delle squadre italiane, che in questo momento soffrono più di altre la crisi economica, perché più di altre hanno un regime fiscale sfavorevole. Certo. Pensiamo al fatto che per esempio le squadre di calcio italiane, anche quando sono in rosso, devono pagare l'IRAP, che è un'imposta che esiste soltanto in Italia e che colpisce il costo del lavoro anche quando la squadra non ha prodotto utili, cosa che per esempio non c'è in Spagna. Ma ci sono anche differenze sostanziali, ora senza entrare troppo nel tecnico che forse annoiamo, ma i tifosi devono essere interessati a questa cosa. Le squadre italiane, per quella che è la normativa civilistica italiana, sono obbligate nel momento in cui hanno delle perdite a ricapitalizzare immediatamente, altrimenti la società va in liquidazione, anche perché ogni anno alla fine dell'assemblea, quando si approva il bilancio in rosso, il presidente Moratti o il presidente Berlusconi finora sono stati costretti a mettere subito le mani, devono staccare l'assegno in tasca e staccare l'assegno e coprire il buco. In Spagna o in Inghilterra le squadre che hanno debiti enormi, ricordiamo che il Real Madrid può permettersi una campagna di 250 milioni di euro, almeno così abbiamo letto, ma ha debiti per oltre 500 milioni di euro. Però in Spagna e in Inghilterra non c'è un obbligo di immediata ricapitalizzazione della società, quindi tu puoi acquistare grandi campioni, avere un debito alto, però se con quei grandi campioni riesci ad arrivare in Champions League, in semifinale, in finale, e comunque ad avere dei piccoli utili ogni anno, il Real Madrid quest'anno ha fatto 16 o 14 milioni di euro di utili, e quindi puoi dimostrare che in quell'anno riesci comunque a pagare i fornitori, a pagare i giocatori, puoi continuare tranquillamente ad avere quel debito accumulato, se riesci a pagare gli interessi per esempio, e poi evidentemente comprare Kakà oppure puoi comprare Ibrahimovic nel caso del Barcellona, che il Barcellona ha quasi 500 milioni di debito. Uh-huh. E chiaramente possono vivere sopra questo grande buco. Esattamente, una volta che hanno raggiunto una posizione dominante nel mercato, e facciamo un discorso qui squisitamente economico e di concorrenza, possono conservare quella posizione dominante indipendentemente quindi dai debiti che hanno. Ecco perché Platini più volte ha detto: sono stanco di vedere finali con squadre indebitate, uh-huh, e sta cercando, c'è una commissione UEFA che ha nominato, di stabilire dei criteri, diciamo delle regole omogenee per far sì che, diciamo, ci sia più equità dal punto di vista delle potenzialità economiche delle squadre. Certo. Un po' sul modello NBA, insomma, comunque dei campionati americani. Senti Marco, ma tornando a Kakà, c'è un'altra storia che vorrei chiarire con te, quella dei diritti di immagine. Allora, al Milan, ieri Alberto Costa ci diceva, al Milan guadagnava questi soldi e aveva il 100% degli introiti derivanti dai suoi diritti di immagine. Ora leggo, l'ho letto per la verità già ieri, un'agenzia che è uscita ieri, secondo uno studio realizzato da Sedwick Sport, il Real Madrid incasserà dall'acquisto di Kakà 75 milioni di euro l'anno. Com'è possibile? Sono ovviamente calcoli che, se vogliamo, lasciano il tempo che trovano, perché sono valutazioni su quello che è il merchandising intorno alla maglietta di Kakà. Evidentemente anche lì c'è un impatto fiscale, perché i diritti d'immagine, diciamo, vanno in Italia, confluiscono nel reddito complessivo del giocatore, che evidentemente contratta al netto anche qui, quindi sono costi che ha la società. In Spagna, anche se soltanto il 50% di reddito derivante da diritti d'immagine Kakà, ci pagherà il 24% di tasse anziché il 43%, quindi comunque per lui il vantaggio c'è, anche se è ripartito con la società. Da questo punto di vista io credo che Kakà non perda nulla. Certo. Non è la motivazione economica. No, ma più che dal punto di vista di Kakà, dal punto di vista della società. Allora, questo cosa vuol dire? Che i nostri club non sono altrettanto all'avanguardia nello sfruttamento dell'immagine, nel merchandising, al netto dei falsi, al netto di tutte queste cose, non sono altrettanto bravi nel gestire comunque l'affare calcio, e quindi nel gestire nemmeno il patrimonio che hanno. Questo è evidente. Il primo grande contratto legato a diritti d'immagine è stato quello di Del Piero a fine 98-99, in cui, diciamo, c'è stata per la prima volta una contrattazione importante sui diritti d'immagine. La legislazione fiscale anche qui non è che aiuti molto, perché, come ripeto, i diritti d'immagine vanno a finire nel patrimonio del giocatore, ci si paga completamente le tasse. Sì. In alcuni casi, per esempio, si cerca di creare società, diciamo, all'estero, in Inghilterra, offshore, ma qui i consulenti fiscali forse potrebbero dire altro. Chiudere le orecchie. Esattamente. Però diciamo che la nostra legislazione non aiuta, e sicuramente le squadre italiane sono indietro nello sfruttamento del diritti d'immagine, ma in generale di quello che è il marchio della squadra. Se pensiamo ai ricavi, ai ritorni che hanno le società inglesi, per esempio, dal merchandising, vuoi perché hanno lo stadio di proprietà e quindi riescono a gestirli direttamente, vuoi all'estero. Sì, ma tornando a quel buco su cui si muovono i club stranieri, è anche vero che all'estero possono mettere a garanzia di quel, correggimi se sbaglio, a garanzia di quel buco, comunque impianti, comunque strutture, comunque beni tangibili che non siano quelli volatili del valore dei giocatori sul mercato. Esattamente. È un discorso vecchio per il calcio italiano, e purtroppo è un buco che difficilmente si riuscirà a colmare. La Juve ci sta provando, è quella più avanti, ci sono progetti su progetti che anno dopo anno si rincorrono. Fatto sta che in Italia gli immobili, gli stadi restano di proprietà dei comuni, le società non possono garantire alcunché attraverso quel tipo di patrimonializzazione. Sì. Ecco perché ogni anno, insomma, c'è il buco di bilancio e bisogna correrlo, ed ecco perché dalle parti, diciamo, della Fininvest qualcuno si è scocciato, diciamo, di dover staccare ogni anno l'assegno, ed ecco perché la strategia economica, politica e di bilancio legata al Milan è cambiata. E non so se è un bene o un male, questo soltanto... No, ma io, come ho sempre detto, trovo che sia del tutto legittimo, no? Anzi, è auspicabile che anche gli altri lo facciano. C'è un buco di bilancio, si va a sanare quel buco di bilancio. Se il signor Bic, che normalmente firma quell'assegno, non ne ha più voglia, è legittimo che dica: signori, io mi sono stufato di mettere le mani in tasca a ogni fine stagione, di conseguenza cambiamo politica societaria, c'è un giocatore, il nostro giocatore più pregiato viene messo sul mercato. Lo fanno in molti, ovviamente non ai livelli del Milan, molti dichiaratamente. Il giocatore l'ha fatto il Genoa con Milito e Motta, giustamente, no? Sfruttando la grande stagione che hanno fatto questi due giocatori, e poi ricostruisce una squadra a misura di portafoglio di Preziosi. Non so se sia esattamente così, ma l'immagine è questa. È del tutto legittimo. L'importante è dichiararlo, cioè non dire Kakà è andato via perché è voluto andare via o perché per guadagnare di più. La realtà, la realtà a tutti appare questa, tanto che io ho sempre avuto dubbi, ma ce li avevo ancora quando doveva andare al Manchester City. Tutti dicono: perché non è andato al Manchester City? Chiaro, avrebbe guadagnato più il Milan, avrebbe guadagnato molto di più Kakà, però ha detto: dateci voi a giocare per gli sceicchi in una squadra da costruire. Poi spieghiamo anche perché Kakà non è andato in Inghilterra, tra l'altro. Io credo che questi soldi andranno a coprire, più quelli incassati per Gorkufa, andranno a coprire il buco di bilancio. Quindi è bene togliere qualunque tipo di illusione ai tifosi che sono già abbastanza scocciati. L'idea che sta venendo fuori, che all'inizio è trapelata, ora c'è un po' di coraggio più nell'ammetterla, uh-huh, dalle parti del Milan, è appunto quella che si cambia strategia. Se c'è un buco di bilancio va coperto. Perfetto. E il Milan deve essere autonomo dal punto, perfetto, di vista economico. Quindi, questo non fa una grinza. Tot ricavi, tot spese. Questo è il principio, il nuovo principio che si sta affermando. Bisognerebbe dirlo con chiarezza ai tifosi. Esatto. Bisognerebbe ripartire dal vivaio, anche perché le grandi stagioni del Milan sono state fatte da squadre la cui ossatura, no, veniva, certo, dalle giovanili. Forse questo è un bene per l'intero calcio italiano che ritorni questo concetto. Ma guarda che non c'è dubbio su questo. Sarebbe un discorso che anche gli stessi tifosi, a pura fronte della vendita di Kakà, io credo accetterebbero senza troppi problemi. I tifosi però possono dire: ok, dici che vendi Kakà perché vuole guadagnare di più, benissimo, allora perché paghiamo 4 milioni di euro l'anno a Dida, perché paghiamo quei soldi a Ronaldinho, perché paghiamo quei soldi a Shevchenko, perché andiamo a prendere Beckham, perché andiamo a prendere al limite Zambrotta, che comunque è giocatore molto costoso e molto in là con gli anni, perché continuiamo in questa politica molto dispendiosa? Io ho l'impressione, ma forse questo è stato già detto, quindi non sono particolarmente originale nel dirlo, che la vendita di Kakà sia anche, diciamo, a chiusura di un ciclo in cui tante scelte precedenti sono state fatte, certo, con un'altra logica, e quindi ora risultano particolarmente sbagliate. Sì. Al di là di quello che può essere poi il rendimento sportivo del singolo calciatore, ma acquistare, certo, calciatori che hanno già superato la trentina con ingaggi alti, diciamo che si è rivelato un errore. Noi non dobbiamo dimenticare che veniamo da una stagione dopo, diciamo, le grandi abbuffate degli anni 90 con le squadre italiane che vincevano le coppe europee e diciamo potevano permettersi tutti i grandi campioni, in cui ci siamo risvegliati nel corso degli ultimi 5-6 anni. Tante squadre sono fallite, tante squadre che hanno vissuto al, certo, di sopra delle proprie possibilità. Napoli, Torino, la Fiorentina hanno dovuto passare, diciamo, dalle forche caudine della B, della C. È bene che ci sia sobrietà, è bene che il bilancio diventi un valore. Il problema, semmai, è appunto ammetterlo con i tifosi, chiaro, ma anche mettersi nelle condizioni però di poter poi gareggiare a livello internazionale. Se le regole non sono più eque, se non, le stesse regole non valgono per tutti, e quindi ci sono posizioni dominanti, ripeto, mm-hmm, come quelle inglesi o quelle spagnole, è evidente che bisogna porre una questione a livello internazionale. E questo vale sia a livello, diciamo, di federazione internazionale, della UEFA, ma Platini ha dichiarato più volte di essere sensibile a questo tema, ma anche a livello comunitario. Serve forse una gestione più oculata, anche dal punto di vista giuridico, di quello che è il mondo calcio, che non può essere equiparato a tutti gli altri settori, proprio, certo, perché ci sono, chiaro, tanti interessi e tante motivazioni non strettamente, diciamo, economiche o sportive. Mm-hmm. E quindi equilibrare quello che è l'intero movimento europeo su regole analoghe. Non è possibile che squadre come il Manchester e il Liverpool possano andare avanti con debiti di 600-800, certo, milioni, o quelle spagnole abbiamo detto di oltre 500 milioni, certo, e le nostre invece sono costrette a ricapitalizzare ogni volta, a fare i conti con certo, con il bilancino. Però a quel punto le nostre si dovrebbero rendere conto, si dovrebbero appoggiare su una realtà che è diversa rispetto a quella degli altri, perché gli altri gli stadi li hanno, gli altri l'organizzazione societaria ce l'hanno, mentre da noi è una cosa un po' più volatile. Siamo sicuramente in ritardo, e bisogna fare qualcosa da questo punto di vista. Ci si sta provando, serve l'intento collettivo, non basta quello, insomma, della singola società. Allora ci fermiamo un attimo per il traffico. Ripeti i nostri contatti: 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Io mi inchino di fronte all'esigenza dei nostri ascoltatori, diversi mi hanno scritto: quando stai per dire il risultato di gara 3 della finale NBA di questa notte. Avvertici che abbassiamo la radio perché vogliamo vederla un orario umano questa sera. Sempre con me Marco Berinazzo, collega del Sole 24 Ore. Stiamo parlando non tanto di cacà, come sostiene qualcuno. Basta questo cacà, parlate più della Juve. Poi parliamo anche della Juve, ma lo facciamo in questo modo. Non stiamo parlando di cacà, ma stiamo traendo spunto dalla vicenda cacà per provare a capirne un po' di più. Ad esempio capire questo, Marco, che ancora mi sfugge mentre stanno arrivando gli ascoltatori. Prima un tuo omonimo da Milano. Un'altra cosa che mi sfugge è questa. Allora, il Milan vende il suo pezzo più pregiato, ok? Una famiglia come quella di Berlusconi, molto attenta alle dinamiche imprenditoriali, si ritrova per le mani una squadra che comunque vale un po' di meno. Questa è un'altra obiezione che hanno sollevato molti tifosi. Vale un po' di meno dal punto di vista del merchandising, dal punto di vista, io credo, anche del valore d'acquisto. Se uno arriva qui e mette i soldi sul tavolo, voglio prendere il Milan, cosa che pare stia... potrebbe succedere, anche se Galliani si arrabbia. Ieri ne abbiamo parlato con Andrea Schianchi, che l'ha scritto. Noi del Sole 24 Ore l'abbiamo scritto, che Galliani si arrabbia pure, però se le notizie che circolano sono queste, si può anche andare a fondo della vicenda. Ebbene, partiamo da un Milan che potrebbe valere un po' di meno senza il suo pezzo pregiato. Può valere per il discorso, può valere per l'Inter, per Ibrahimovic, per la Juventus, per Buffon, eccetera, eccetera, eccetera. Un patrimonio depauperato. Vai a giocare le amichevoli all'estero, in Albania, in Dubai, come ha fatto il Milan in questa stagione. C'è cacà, no, va bene, vi do tot soldi in meno per giocare questa amichevole. Che in prospettiva ci possa essere come dire un intento di un impegno minore della famiglia Berlusconi nel Milan, si è detto, si è scritto, e io credo che ci sia del fondamento. Si è parlato per esempio di Fly Emirates come possibile sponsor, ma in prospettiva come possibile socio di minoranza. Io credo innanzitutto che soci di minoranza nelle squadre di calcio non ci possono essere, perché Le squadre di calcio non danno dividendi, sono tutte in perdita. Chiaro. E quindi i ritorni che si hanno sono, come dire, non strettamente economici. Anche in Arabia Saudita è difficile trovare il pollo. Evidentemente. Chi metti i soldi per farti... Evidentemente. Chi mette i soldi dopo un po' vuol comandare, vuol gestire le cose. Per cui io credo che magari non nell'immediato ci possa essere un progressivo diciamo allontanamento da quella che è la gestione diretta del Milan da parte dell'universo Berlusconi, perché ormai ci sono, come dire, a gestire la galassia della Finivers, Mediaset, insomma i figli di Berlusconi, che possono avere interessi diversi dal padre, certo, rispetto, chiaro, appunto alla gestione di una squadra di calcio. E quindi avere una squadra anche meno ricca dal punto di vista del patrimonio può far pensare a un cambio della guardia da qui a qualche anno ai vertici della società. Cominciamo a parlare con gli ascoltatori, prima appunto Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io sono rimasto molto colpito da questo discorso di Kakà, che piangendo diceva che sarebbe voluto restare. Io non ci credo, perché alla fine della fiera noi vediamo dei calciatori che sono diventati dei mercenari, e ci metto dentro anche Kakà. Perché se veramente voleva aiutare il Milan, se ne andava per aiutare la società quando l'offerta è stata fatta al Manchester City. Ma io mi scusi Marco, però io credo che ci sia una via di mezzo tra l'essere mercenario e l'essere fessi e l'essere professionisti. Perché, però voglio dire, lungi dall'esempio invece di Gattuso, due giocatori, due spessori diversi. Però ecco, quello che viene a mancare sono giocatori come Maldini, come Gattuso, come Del Piero, che tengono comunque, dove era una bandiera. E io come tifoso soprattutto ne vengo toccato, perché a questo punto allora è tutto ma il contrario di tutto. Prima di partire per la Confederation Cup aveva fatto le dichiarazioni: resterò al Milan, voglio essere un simbolo. E poi sti qui, ma a me sembra che sia un po' un gioco fasullo. Ma torniamo al discorso, io mi attengo ai fatti. È il Milan che ha venduto Kakà, non Kakà che se ne è voluto andare dal Milan. Mi sembrano due discorsi molto diversi, ed è per questo che è diverso anche il discorso di Shevchenko. Si diceva mai il Milan ha venduto una sua bandiera, mai, prima di oggi, prima di Kakà, perché Shevchenko se ne è voluto andare lui. E allora benissimo ha fatto il Milan nel dire: vuoi andare lì per i soldi giusti, vai pure, come fa l'Inter sta per fare l'Inter con Ibrahimovic. Vuoi andartene, prego, quella è la porta. Però in questo caso io credo che Kakà veramente avesse voluto guadagnare tutti i soldi del mondo, sarebbe andato in Inghilterra quest'inverno. Invece ha detto: no, io voglio rimanere al Milan, mi volete vendere? Real Madrid mi va bene, tanto che il Milan ci ha smenato non pochi quattrini da quel rifiuto di Riccardino. Correggimi se sbaglio, Marco. Beh, se stando ai dati sono circa 30 milioni. Mica poco, eh? Non poco. Appurato che sia questo, diciamo, il reale andamento dei fatti. Forse Kakà, diciamo, o il Manchester erano spaventati dal fatto che nel 2010 in Inghilterra ci sarà un'imposta del 50% sui redditi alti, per riallacciarsi al discorso di prima, e quindi poteva essere poco allettante, al di là della questione sportiva, andare in Inghilterra, più conveniente per tutti il trasferimento in Spagna. E sono convinto che le motivazioni economiche, se ci sono, sono quelle del Milan, non di Kakà. Kakà comunque è un campione e può contrattare diciamo ingaggi adeguati in qualunque paese vada a giocare. Franco Mantova, buongiorno. Buongiorno. Mi abbassi la radio, grazie, perché sennò sento ritorno in cuffia e mi dà fastidio. Mi sembra che l'approccio delle 3-4 grandi, mettiamoci anche la Roma, per quanto riguarda queste problematiche sia molto diversa, nel senso che l'Inter ha un presidente mecenate che ogni tanto ripaga buchi di centinaia di milioni di euro. Non ogni tanto, ogni fine stagione, sempre, puntuale. Sempre. Ecco. Il Milan l'ha fatto fino a ieri, ma oggi deve capire che deve cambiare registro. Perfetto. Però non è facile cambiare registro, perché sono 20 anni che il Milan non cura il settore giovanile. Io seguo i giovani, non ha osservatori. Sì, verissimo. Vince pochissimo sia il campo nazionale che internazionale. Verissimo. L'ultimo torneo di Viareggio risale non so quanti anni fa. Il campionato primavera dei rossoneri è stato un disastro, non c'è dubbio, ha ragione. Il campionato primavera, che non, per me non è, da un punto di vista della bacheca, meno importante della Coppa Italia, perché vediamo che ormai le squadre primavera sono infarcite di titolari o pseudo tali che giocano e poi rientrano in prima squadra. Sì, con regola discutibile. Poi? È una regola discutibile, però ad oggi è così. E poi c'è il discorso che effettivamente in questo calciomercato non si tiene conto di un passo molto importante che è stato firmato a Torino poche settimane fa, che è il primo stadio italiano di proprietà, quello che fra 2 anni sarà quello della Juventus. Quindi con un investimento ridotto. Lei fa bene a fare questo discorso, anche perché l'avrei affrontato tra pochi istanti con Marco Beninazzo. La Juventus, tutti i tifosi della Juventus hanno passato seconda metà dell'inverno, no? Ad essere arrabbiati perché il club non è in grado di gestire il mercato, i soldi spesi sono stati spesi male, eccetera eccetera. Può essere inesperienza dal punto di vista strettamente calcistico, e su questo non ci piove, però dall'altro lato, guardando le cose dall'esterno e un po' dall'alto, vedo che la Juventus dal punto di vista societario è il club che si sta muovendo in maniera più interessante, in maniera più moderna e più al passo con quegli altri signori inglesi e spagnoli. È un club che ha dovuto rifondarsi pochi anni fa e quindi ha nuova linfa e vede le cose in maniera più diretta. Ora, io sarei contento se lo stadio fosse pronto, vuol dire, tra 4 anni, 2 anni mi sembra un po' poco, però in ogni caso è sicuramente il club che è più avanti da questo punto di vista. Quello è un passaggio obbligato, se no altrimenti siamo qui a raccontarci sempre di campioni che vanno da altre parti e di squadre italiane che curano poco il vivaio. La finale primavera si è svolta tra Siena e Palermo, ha vinto il Palermo, non a caso due provinciali che devono reggersi su quel tipo di investimento per continuare a competere almeno a livello nazionale. Sì. Alberto, provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, volevo riallacciarmi a quello che ha detto il dottor Belinazzo prima per il merchandising in Spagna. Io recentemente sono stato sia a Barcellona che a Madrid con la famiglia, e il merchandising calcistico è pazzesco, cioè la maglietta del Real Madrid o del Barcellona ce l'hanno addosso tutti, ma tutti, ma veramente chi va al lavoro, chi va in ufficio, lavora in banca, chi nei negozi e tutto, per cui 3 milioni di abitanti Madrid, penso che 2 milioni e mezzo di persone abbiano sulla maglietta. Mentre noi è una cosa che hanno sui ragazzini. Caduta la linea, ma l'intervento era interessante. Assolutamente, e bisogna dire che sono, diciamo, questo però è una questione culturale. Sì, ma sono poi tra l'altro magliette del originali. Club originali, sì, gli introiti vanno a club. Esattamente. Esattamente, questo è un aspetto non secondario, non trascurabile. E se consideriamo tutto quello che ruota, però, Marco, è un po' parte dello stesso discorso, perché uno che vuole la maglietta perché la vuole, perché è parte della sua cultura, vuole la maglietta originale, non vuole quella a 10 euro dalle bancarelle. Evidentemente, ma ricordiamoci anche che intorno alla gestione delle società ci sono tanti gruppi di pseudo tifosi come dire, che gestiscono queste cose in maniera non proprio lecita e che poi ricattano le società quando, diciamo, certe agevolazioni o diciamo certe politiche molto elastiche da questo punto di vista vengono infrante o si cerca di cambiare rotta. Il Milan e Galliani sotto scorta da anni ha cercato di farlo con molte difficoltà. Da altre parti in Italia non è che si sia tanto meglio, per cui è qualcosa, è una cultura che deve cambiare, ma ci deve essere anche un intervento di legalità che deve partire dai club, ma i club devono essere aiutati anche dallo Stato in questo. I club devono essere aiutati dallo Stato e devono lottare seriamente contro i mascalzoni che li tengono in ostaggio, questo è il discorso. Marco, ti ringrazio, è stato davvero un piacere. Buon pomeriggio. A prestissimo con Marco Belinazzo, collega del Sole 24 Ore. Dunque, gli appassionati dell'NBA avranno al momento spento la radio. Vi do, come promesso, il risultato di gara 3 di finale stanotte NBA. Allora, gli Orlando Magic per la prima volta nella loro storia, dopo 6 tentativi falliti, vincono una partita di finale 108-104 e portano sul 2-1 la serie, 2-1 sempre a vantaggio dei Los Angeles Lakers. Adesso do qualche secondo a chi ha spento la radio per riaccenderla e poi andiamo avanti. Dunque, prima ho sbagliato naturalmente l'apsus che spero mi perdonerete, mi perdonerà il qui presente, non Gigi Garanzini, titolare di questo microfono, naturalmente mi ha raggiunto nello studio, ma il collega che ben conoscete, Gigi Donelli. Ciao Gigi. Ciao Carlo. No, perché in questi giorni leggo su tutti i giornali, Gazzetta dello Sport compresa, delle cronache molto interessanti ma anche vagamente inquietanti che arrivano dal Sudafrica. Poi vi do qualche esempio, anzi ve lo do subito. Allora, Enrico Currò su Repubblica: ieri pomeriggio il pullman della nazionale campione del mondo diretto al Super Stadium per l'allenamento prima dell'amichevole di stasera contro la Nuova Zelanda è entrato nel Sudafrica più crudo, quello delle township nere ormai emancipate dall'apartheid ma ancora preda delle contraddizioni di un paese che oscilla tra una ricchezza incommensurabile e una povertà palpabile. Vogliamo andare in rosa? Allora, a caso, Massimo Cecchini apre così il suo pezzo. Il quotidiano Star lancia l'allarme, emergenza freddo, parte una raccolta di fondi per aiutare chi non ha nulla. Qui ad Atteridgeville, alla periferia di Pretoria, sono in parecchi, almeno ad osservare la township, una baraccopoli che si estende ai margini dello stadio. Vorrei parlarne un po', se vi va, magari anche con voi, 800 24 00 24. E allora Gigi Donelli, che qualche mese fa ha realizzato un programma intitolato La Via degli Stadi, che ha percorso le 8 città che ospiteranno i mondiali del 2010 e che hanno permesso a Radio 24, a Gigi Donelli, di raccontare il Sudafrica con tutte le sue contraddizioni, in tutte le sue sfaccettature, frutto di un lungo e approfondito viaggio. Ciao Gigi. Ciao ancora Carlo, direi anche appassionante, perché poi c'è l'Africa, appunto. Allora, le grottaglie che dice attraversa la township di Pretoria, dice: sono sicuro che queste persone vivono felici. Buffon che dice: non ci rendiamo conto di niente, speriamo che nei prossimi giorni ci portino a vedere qualcosa. Ma è davvero così tremendo il Sudafrica, nel quale molti italiani magari progettano di andare l'anno prossimo per le vacanze a vedere i mondiali? Assolutamente no, esattamente il contrario, nel senso che il Sudafrica è un paese di una bellezza formidabile, forse per questo che negli ultimi 5 secoli, per varie ragioni, dico 5 secoli, non 5 anni, gente di tutto il mondo in qualche modo converge in questa parte del mondo, appunto. È chiaro che da un lato c'è un Legrottaglia che chissà si interroga sulla povertà, questo forse è anche un nostro modello, sono poveri ma sono felici. Beh, non credo che questo sia adatto a Sudafrica, perché in Sudafrica c'è gente ricca, ma molto ricca, e sto parlando di bianchi e neri, ci sono neri a capo di compagnie minerarie e poi c'è tutta la scala. Naturalmente quello che è chiaro, stiamo parlando del Sudafrica, è che il principale problema della società sudafricana oggi è la distribuzione del reddito. Peraltro, come dire, non è che suoni proprio del tutto incomprensibile a noi. Ecco, immaginate che se noi abbiamo, come dire, una distribuzione che è quella di un campo da calcio, beh, in Sudafrica ce ne hanno 10. Sì. Questo è assolutamente reale. Per quello che dice Buffon, beh, Buffon a me fa piacere, figurati, sentire degli atleti, dei personaggi importanti che in qualche modo dimostrano curiosità per i luoghi. Io non ho mai fatto parte di un ritiro azzurro, ahimè, per cui immagino che avrà altro cui pensare, però l'Africa è sempre lì, il Sudafrica è sempre lì. Spero per lui, come per tutti i suoi compagni d'avventura in questa Confederation, e speriamo nei prossimi mondiali, che veda che cosa in Sudafrica. In Sudafrica si può vedere di tutto, che va dalla natura, per cui è famosissimo, ma dalla cultura complessa come solo un paese appunto arcobaleno ti può offrire, l'architettura, ti può offrire una storia, che è la storia del nostro secolo, o meglio di quello che ci siamo appena lasciati alle spalle. Insomma, gli spunti non gli mancheranno di certo. Se non sbaglio, mi dicevi, la nazionale si prepara a debuttare a Pretoria. Esatto. Ecco, Pretoria stesso è una città simbolo di molte storie, peraltro. E quindi, insomma, non mi preoccuperei per loro. Poi mi chiedo se sia proprio una questione di compatibilità con i loro impegni. Mi piace dare un'immagine del Sudafrica. Appunto, ambientiamolo. Questo stadio che nasce come un fiore in mezzo a una baraccopoli, è così? Stadio di Pretoria dove giocherà l'Italia stasera. Le baraccopoli in Sudafrica spuntano qui e là. Sì. Le baraccopoli sono, ce ne sono, innanzitutto dire township oggi non vuol dire più un granché. La più famosa township del Sudafrica, per esempio, Soweto. Soweto, che è nelle canzoni, che è in Johnny Clegg, che è in Nelson Mandela che cammina in mezzo a 2,5 milioni di persone. Bene, Soweto, alle porte di Johannesburg, oggi è una città che si chiama township per una vecchia abitudine. Sì. È una città dove ci sono le villette con la piscina piccola, piuttosto che tutta quella... diciamo sequenza delle periferie urbane, e ancora non riguarda solo il Sudafrica, che va dalla villetta alla casa di latta, ecco, quello c'è. Perché sbocciano questi fiori un po' tristi, come tu dici? Perché il Sudafrica è anche un paese di grande movimento, perché il Sudafrica è un paese dove la gente va per lavorare, cioè non siamo gli unici a ricevere immigrazione clandestina nel mondo, a volte pensiamo forse di esserlo, e neanche l'Europa è l'unica. In Sudafrica ci sono delle problematiche proprio attuali che in qualche modo ci somigliano molto. I mozambicani, i somali, piuttosto che ragazzi in fuga da altre zone dell'Africa, possono puntare anche a sud. E quel sud è il Sudafrica, perché ancora una volta il Sudafrica, nelle sue meravigliose contraddizioni, è anche il primo paese per reddito dell'Africa, è anche il paese della fortuna. Non dimentichiamo che il Sudafrica lo è sempre stato. Tutti noi, credo, avremmo sentito parlare della De Beers, dei diamanti, certo, dell'oro. Beh, in da Sudafrica, lontano, da lontano, sì, visti, sentito dire. Però il concetto è lo stesso, cioè già alla fine dell'Ottocento si correva verso il Sudafrica per la corsa all'oro, Johannesburg è nata intorno all'oro, e per le famose miniere di diamanti di Kimberley. Chiaramente i tempi sono cambiati, le complessità, eccetera, eccetera, però il Sudafrica è ancora un faro politico, ma anche economico. Gigi, adesso vorrei parlare di due cose, due aspetti. Uno, allora, leggo sempre le cronache sportive di questi giorni e c'è una nazionale praticamente sotto regime militare, sotto scorta, 70 uomini di scorta. Ieri parlavamo con Alberto Costa, inviato del Corriere della Sera laggiù, era in un ristorante e c'erano lì anche le sue guardie del corpo. E le guardie, non sue, che pattugliavano i giornalisti italiani, ci diceva sì, la proprietaria è un'italiana, ha avuto diversi problemi, si è trovata diverse volte una pistola puntata contro, eccetera. Ora io dico, come detto, molti italiani magari stanno progettando le vacanze, cioè, non per questa Confederation Cup, ma per l'anno prossimo ai mondiali, dove lì ci sarà, insomma, un po' il centro del mondo. Sudafrica è un paese pericoloso? Questo te lo voglio chiedere, no, te lo chiedo subito perché abbiamo ancora un paio di minuti prima del traffico e poi anche degli ascoltatori. Certo, può esserlo, però sia ben chiaro una cosa, certo può esserlo. Allora, ci sono delle statistiche sui dati della criminalità in Sudafrica, sono alte, sono troppo alte. Il 95% riguarda appunto eventi che si svolgono nelle township, ok? Sì. Il Sudafrica ha il terrore della criminalità, nel senso, e i primi a esserne spaventati sono proprio i media sudafricani, per cui... entrare in Sudafrica significa entrare anche in un meccanismo di comunicazione bocca a bocca, per cui tutti ti dicono, mi raccomando, stai attento, guardati intorno. È curioso come questo mi ricorda molto ciò che è accaduto in Russia dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Prima la criminalità non esisteva per ragioni politico, quindi, diciamo, di sistema. Poi improvvisamente la stampa libera, la maggiore libertà, ha comunicato questa situazione. Beh, per anni i miei amici russi pensavano che Mosca fosse la città più pericolosa del mondo. Obiettivamente non lo è. Insomma, cercare di essere sintetici. Johannesburg è una realtà di oltre 4 milioni di abitanti solamente nell'area urbana. È una città complicatissima, agitata, piena di tutte quelle contraddizioni che dicevamo prima. Quindi è chiaro che in un grosso centro urbano i rischi sono maggiori. Il mondo rurale africano, e questo mi riferisco a tutto il Sudafrica che ho attraversato in lungo e in largo, è in questo senso molto simile al mondo rurale di qualsiasi altro paese, cioè la gente accogliente, simpatica. Possiamo escludere che all'interno di una comunità ci sia qualcuno che tira fuori una pistola? Beh, io non lo faccio, certo. Però questo non significa, e questo ti racconto un'esperienza personale, che è un luogo che non solo ho visitato e tornerò a visitare, ma che suggerisco di visitare. Certo, un po' di prudenza, come sempre in tutti i luoghi, chiedere, avere una buona guida, nel senso di prima di muoversi e uscire, sì. No? Come... Credo che questa storia delle 70 guardie del corpo sia anche un po' veramente il riflesso della grande paura dei sudafricani. Sì, delle ville col filo spinato intorno. Insomma. Tutto vero, le discrepanze, appunto la distribuzione della ricchezza è assolutamente ingiusta, ma come dire, ci siamo forse dimenticati da dove viene questo paese? E che cos'era questo paese prima del 1990? Come sempre Gigi Donelli, stiamo parlando di Sudafrica, della realtà sudafricana in cui vivono in questi giorni gli azzurri, come e vivranno soprattutto, ci auguriamo a lungo, tra un anno, gli azzurri, e in cui vivranno anche molti italiani che vorranno andare là a vedere questi mondiali. Dino da Bergamo, Roberto da Venezia, sono ascoltatori Giannina, tra poco voglio parlare con Gigi anche un po' degli stadi che ha visitato in maniera molto approfondita. Dino, buongiorno. La descrizione del Sudafrica fatta da quel signore che non so come si chiami, credo che lui abbia visto un Sudafrica diverso dal mio, per il semplice motivo che passeggiare per Johannesburg è un rischio tremendo. È chiaro che il Kruger Park è una delle più belle risorse mondiali di natura, però uno si deve rendere conto che uscire da Cape Town in macchina e trovare un posto di blocco per lavori in corso, scendere per vedere come si passa ed essere assaltati e derubati di tutto, è un fatto che viene raccontato normalmente da amici sudafricani che ho. Io non lo so dove sia andato questo signore a girare per il Sudafrica. Ovunque. Questa è la mia esperienza e l'esperienza di molti amici che ho. Certo. Joburg sì. È una cosa tremenda. Capisco Durban, capisco Cape Town. Sono entità nelle quali si vive, tutto questo è corretto. Adesso le faccio rispondere da Gigi Donelli, però anche passare attraverso certi quartieri di certe città italiane non è un'esperienza semplicissima. Questo nulla toglie al fatto che comunque Sudafrica abbia le sue componenti di rischio e di pericolo, però non credo in maniera, cioè senz'altro allora, superiori, ma componenti di rischio e di pericolo che ci sono. Se posso anche... rispondo almeno, sì, certo, sì. La realtà, quella che penso, è semplicemente che non ci sia nessun Sudafrica mio o quello di questo signore, diciamo, che rappresenti Sudafrica, perché sicuramente quello che lui dice di Johannesburg e del centro, anche se definire una città tremenda, certo, è una città molto complessa. Io ho camminato per Johannesburg, ho avuto una sensazione di grande allerta, eccetera eccetera, e come lei stesso diceva, situazioni sono diverse a Durban piuttosto che in campagna. Non a caso io prima alla tua domanda su il Sudafrica può essere un posto pericoloso, ho risposto sì, perché non voglio assolutamente dare un'immagine aulica di questo paese. La criminalità appunto è molto alta, d'altra parte lei mi chiedeva dove ho viaggiato, beh io ho attraversato in auto tutto il paese nel corso di 6 settimane, ma dopodiché questo che cosa significa? Che sono stato forse fortunato e che il suo amico non lo è stato? Gli amici sudafricani e i sudafricani che vivono in Sudafrica vivono in condizioni di grande protezione, tu l'hai descritte poco fa Carlo, le famose case col filo spinato, sì. Queste sono tutte realtà e non mi sembra di avere detto che non esistono. Credo sinceramente che in Sudafrica sia l'insieme di tutte queste cose. Alla domanda che tu mi hai fatto se può essere un paese pericoloso, ti ho risposto di sì. Alla domanda se è un paese dove consiglierei chi ama conoscere il mondo, chi ama vedere il calcio nel caso del 2010 da dare, la risposta è altrettanto sì. Però non ho la presunzione di dare... Con le ovvie logiche precauzioni. E quindi ripeto, non credo caso. Che questo signore sia così... cioè non penso che sia sbagliata la sua affermazione, credo che ci sia una complessità che in fondo è quella che tu anche dicevi dei quartieri, di certi quartieri d'Europa. Beh, sì. Sì. aumentato, certo, non, all'ennesima non è potenza. Che è come andare sulla Riviera Romagnola, andare in Sudafrica, però è, no, è un posto in cui bisogna saper stare anche alle regole e quindi sapersi, cioè, comportare. Sapere, attenzione, adesso per non ambiguità, le regole sono le regole, le informazioni sono preziose, sapersi muovere nei luoghi ha un certo senso, attraversare oggi come accade Soweto, che torniamo, è un po' emblematica di tanta storia africana, oggi nel centro di Soweto ci arrivano i pullman con i turisti e vanno a vedere l'Oscar Peterson Museum, che non è un... forse viene in mente in questa trasmissione i grandi del basket, no, che è Hector Peterson, chiedo scusa, che è una delle vittime appunto storiche dell'apartheid. Certo, tutto avviene in un contesto di un paese che è consapevole dei suoi problemi, non certo. A caso sono proprio i giornali sudafricani che si preoccupano, sì, no, del ma tema tanto sicurezza. Che tutto questo apparato di sicurezza intorno agli ospiti calcistici del Sudafrica, ho l'impressione sia dovuto proprio al grande timore che succeda qualcosa, quindi quello è enorme. Sovrastrutture che sono in buona parte non necessarie nelle loro dimensioni. Che diciamolo pure, probabilmente non serviranno a nulla, perché se l'incidente dovesse avvenire, non credo che avverrà con i nostri calciatori, avverrà tra i turisti, avverrà... Certo, ecco, chiaro. Però... Roberto Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io sono stato il mese scorso in Sudafrica, ho avuto modo di, diciamo, di vedere... poco comunque di vedere, diciamo, la realtà di un paese che, confermo sia l'ospite anche insomma, in maniera relativa al precedente ascoltatore, nel senso che alla fine si parla di un paese talmente complesso dove tutto è vero, tutto non è vero, nel senso che c'è di tutto. Johannesburg fa paura ai bianchi probabilmente perché ci sono tanti neri. Diciamo che ci sono solo neri. Sì, cioè, ecco, diciamolo perché è vero. Dunque noi siamo abituati a un altro tipo di, per carità, nel nostro piccolo mondo ci fa un po' impressione, dunque. Assolutamente, era fatta anche su di me. Sì, ecco, questo voglio dire, dopo la nostra guida ci spiegava il fatto che c'è una sorta di azione fatta dai bianchi per 300-400 anni e di reazione da parte dei popoli di colore, della gente di colore verso i bianchi a livello di borse di studio e di vari vantaggi che hanno rispetto, sì, a noi. Sì. Altra problematica, dunque parliamo di un paese che in realtà è democratico, per modo di dire, cioè, abbastanza democratico da neanche 20 anni, sì, 10 anni. E questo... Insomma, essendo un paese che fa parte del primo mondo è già un qualcosa che sia comunque sviluppato a tal punto. Sì, è chiaro che è un paese che sta è ancora in cammino, è un paese che non è ancora, sì, che non è ancora arrivato là dove deve arrivare, no Gigi? Ma sicuramente, poi vi faccio solo un esempio, io sono d'accordo con quello che sta dicendo il nostro ascoltatore, un esempio banale, noi tutti andiamo al bancomat, lo utilizziamo, abbiamo 8 pulsanti e di solito no, le operazioni bastano. Beh, Sudafrica credo sia uno dei pochi paesi al mondo che avendo 11 lingue ufficiali, non sto parlando di dialetti, di lingue ufficiali, non riescono mai a venirne a capo. Cosa vuol dire? Che c'è una complessità di storie e non solo tra bianchi e neri, che è tanto facile immaginare, ma pensate al conflitto storico che divide gli Xhosa, la famiglia diciamo tribale di Nelson Mandela, agli Zulu, cioè molto prima e molto al di fuori dei bianchi sono luoghi di complessità e in più c'è una storia che è la storia dell'apartheid, un vero arcobaleno per dirla con dolcezza. Senti Gigi, avremo ancora meno di un minuto per parlare del Ellis Park. Mi sembra veramente un sacrilegio parlare in un minuto di Ellis Park, di questo stadio in cui mi auguro l'Italia possa giocare. Formidabile questa... Ellis Park. Orgoglio sudafricano. No, dimmi che impressione ti ha fatto. Quando ci sei arrivato... Beh, è un tempio. Solo una sensazione, un perché poi tanto torniamo a parlare. È un tempio, per me è il luogo in cui il capitano degli Springboks, François Pienaar, ha, come dire, porto la coppa a Nelson Mandela, che vestiva la sua maglia, e ha detto questa l'ho vinta per 45 milioni di sudafricani. Ecco, questo è Ellis Park. Allora facciamo così, fissiamo un altro appuntamento, così parliamo di Ellis Park e con calma di tutti gli altri stadi sudafricani. Facciamo possibilmente prima della fine di questa Confederation Cup, intanto cominciamo a docchiarli in televisione, poi tu ce li racconti. Tanto grazie a Gigi Donelli. Grazie a voi. Flavio Suardi in redazione, Carmelo Lauricelli in regia, Tempo di Sport domani pomeriggio alle 14. Buona giornata a tutti.